Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta. Diciassette e 09, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. Siamo dunque arrivati a questa puntata di Focus Economia. Domani ritroverete il vice direttore di Radio 24 Sebastiano Barisoni. Inizia dunque un'altra puntata, diversi temi di questa giornata economico-finanziaria, temi che vanno ad intrecciarsi con la stretta attualità legata all'epidemia Covid. Lo sentivamo dal GR che ci ha preceduti, i nuovi dati sulla crescita dei contagi, li ricordiamo brevemente, sono oltre 15.000, per l'esattezza 15.199, i decessi sono 127. Dicevamo temi di attualità economica che vanno considerati con l'andamento dell'epidemia. I nuovi e seppure parziali lockdown annunciati da alcune regioni, a partire dalla Lombardia, significano nuove chiusure soprattutto per il fine settimana, chiusure commerciali con tutto ciò che ne consegue. Vi anticipo solamente alcuni dati che poi approfondiremo nel nostro primo blocco, dati che ci aiuteranno a fotografare il momento, dati elaborati da Confimprese e da Ernst & Young. Pensate che sul fronte dei consumi a settembre rispetto al settembre dello scorso anno vi è stato un meno 13,5%, quindi un settembre in peggioramento rispetto ad agosto, quando invece pensavamo si fosse comunque minimamente usciti da questo trend negativo. In sofferenza tutta la filiera della non ristorazione, ma in particolare in sofferenza il settore della ristorazione, che chiude, stiamo parlando di settembre, il mese a meno 18%, male anche l'abbigliamento, meno 12,9%, mentre il non food contiene i danni con un 6,9%, il travel, quindi i viaggi, si confermano maglia nera con un meno 55% nel mese, meno 62% sull'anno, quindi 2020 su 2019 meno 62% per il comparto del turismo. Dicevamo quindi che non possiamo prendere in considerazione il momento congiunturale dell'economia senza prendere in considerazione i dati dell'epidemia. Poco fa proprio l'intervento del Presidente del Consiglio Conte, tralasciamo gli aspetti sanitari delle varie restrizioni, però Conte si dice comunque ottimista, perché dice: abbiamo definito le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, la correttezza di questa scelta, che rivendico come decisiva, è stata confermata dai dati economici più confortanti delle attese. Conte si riferisce al terzo trimestre. La nostra economia, aggiunge il Premier, sta dimostrando la caduta del PIL nel secondo trimestre più contenuta, indicatori decisamente positivi per il terzo trimestre. Quindi sin qui il Presidente del Consiglio Conte, e anche il Ministro della Salute Speranza, che ricorda: senza la vittoria sul coronavirus non ci sarà alcuna seria ripartenza per l'economia. Insomma, con le affermazioni di Conte, Speranza, immagino si inquadri il momento storico, quindi un momento che penalizza chi produce, perché poi i consumi non ripartono. Un settore legato strettamente a quello dei consumi, è un settore a monte dei consumi, è quello dell'autotrasporto. Parleremo anche di questo settore, perché immaginiamo come un lockdown in una regione così così importante come la Lombardia per l'economia del nostro paese, un lockdown dalle 23 a primo mattino possa mettere in seria difficoltà tutta una logistica che soprattutto di notte si muove per offrire a tutti noi prodotti di cui poi ci serviamo nell'ambito della nostra giornata. Quindi i nostri primi due blocchi sono sicuramente dedicati ai consumi e ai riflessi sul settore dell'autotrasporto. Affronteremo come sempre il punto sui mercati. Vi do delle prime anticipazioni: FTSE MIB meno 1,83, ma purtroppo è in buona compagnia, o così diciamo in compagnia negativa con gli altri mercati europei, perché Londra è meno 1,71, Francoforte meno 1, tondo Francia meno 1,12, la Spagna, l'Ibex meno 1,22 e il FTSE MIB, l'abbiamo detto, meno, lo ricordiamo nuovamente, meno 1,85, cambio euro su dollaro meno 1,187. Per quanto riguarda il FTSE MIB, i migliori della giornata sono Unipol, Diasorin, Buzzi, ST Microelectronics e Fiat Chrysler. I peggiori del listino sono Biper Banca, Saipem, Pirelli, Leonardo e Fineco Bank. Questo per quanto riguarda il nostro primo passaggio rapido sui mercati. Un altro dato che mi piace sempre dare è quello del rapporto tra BTP e Bund a 10 anni, quindi il famoso spread, in questo momento a 136,4 più 0,29. Gli altri due temi che affronteremo oggi, ed è questa una notizia molto positiva, il vero e proprio boom dei primi euro bond, dopo anni che si chiedeva all'Europa di farsi carico in maniera unita delle difficoltà del vecchio continente, sono partiti i primi due euro bond. Ci riferiamo ai bond sure, ovvero quelli finalizzati a finanziare, ad aiutare il welfare, in particolar modo la cassa integrazione. Sono stati aperti due bond per 17 miliardi, ma pensate, vi è stata una richiesta per oltre 200 miliardi, quindi un primo segnale molto importante che arriva dall'Europa, in attesa poi dei fondi che sappiamo arriveranno dal recovery plan. E chiuderemo poi la nostra trasmissione parlando delle imprese, sempre del credito alle imprese. In questo caso specifico le imprese si confermano ottime pagatrici tra di loro, ovvero le imprese tra di loro, lockdown o non lockdown, hanno continuato ad onorare i propri impegni. Il punto dolente è laddove le imprese si rapportano con la pubblica amministrazione e in parte con il sistema del credito. Questa è la nostra scaletta di Focus Economia di oggi. Ricordo brevemente in regia Valeria Bernardi, in assistenza al programma Maria Sole Lisciandro e Danilo Di Trani. Potete scriverci al 349-238-6666, sms, whatsapp, le dirette sui nostri social, e io direi di passare sicuramente alle notizie in breve. Partiamo con l'oro, più 0,93% a $1,924,55 l'oncia. Il petrolio in flessione, meno 1,15% a $41,22 al barile. Abbiamo detto dei numeri di oggi della tendenza Covid nel nostro paese, li riprendo velocemente per chi non li avesse, per chi li avesse persi: 15.199 nuovi contagi, i decessi sono 127. Per quanto riguarda la Francia siamo a 20.468 contagi. Il governo francese intende prorogare dunque lo stato d'emergenza sanitaria ripristinato in Francia sabato scorso, fino al 16 febbraio incluso, è quanto riferito dal portavoce del governo Attal in conferenza stampa. E anche la Spagna, quindi. Il governo di Madrid si prepara un coprifuoco per limitare i contagi da coronavirus. Il responsabile regionale della salute, Escudero, ha dichiarato che si sta preparando un'ordinanza per limitare la mobilità dalla mezzanotte alle 6 del mattino, quando sabato terminerà lo stato di allarme in vigore da 2 settimane nella comunità. Il governo ceco ha annunciato che bloccherà il movimento delle persone e chiuderà negozi e servizi in un parziale lockdown per combattere il picco di casi di coronavirus. Saranno consentiti spostamenti solo per il lavoro, per fare la spesa e per andare dal medico. Una parentesi dedicata alla Brexit: ogni giorno perso di negoziati sulle relazioni, un giorno in meno per trovare un accordo, così il vicepresidente della Commissione europea Maroš Šefčovič nel suo intervento conclusivo all'Eurocamera. Il tempo rimasto a disposizione per un accordo sulle relazioni post-Brexit è poco. Siamo pronti a negoziare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Il Regno Unito ha una grande scelta da fare, è una scelta libera e sovrana, li aspetteremo sempre, ma questa scelta determinerà l'accesso al nostro mercato unico, così il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Un argomento che negli anni 90 era ogni giorno sulle prime pagine, vi ricorderete la famosa PAC, la politica agricola comunitaria. Logicamente è un accordo che viene rinnovato ogni un certo periodo di tempo, e i ministri dell'Unione Europea dell'agricoltura hanno raggiunto un accordo per una politica agricola comune in cui almeno il 20% della dotazione nazionale degli aiuti diretti dovrà essere dedicata a incentivi per pratiche agronomiche verdi. Le previsioni del Fondo Monetario Internazionale: c'era anche un cenno nel GR che ci ha preceduti. Il Fondo Monetario prevede per l'Europa una contrazione del 7% nel 2020, la maggiore dalla Seconda Guerra Mondiale, ma in miglioramento rispetto al meno 8,5% previsto in giugno. Il Fondo Monetario lo sottolinea: l'impatto economico della pandemia è stato enorme in Europa e la ripresa da questa crisi sarà irregolare e parziale. I rischi per l'economia europea restano significativi, sempre il Fondo Monetario, e stanno aumentando con la seconda ondata di infezioni che si sta intensificando. Data la considerevole incertezza, le politiche devono continuare in modo risoluto a sostenere la ripresa. Secondo il Fondo Monetario, l'Europa crescerà nel 2021 del 4,7%, la ripresa sarà minore di quella prevista prima della pandemia, implicando una perdita di quasi 3 miliardi di euro. L'Europa deve fare tutto il possibile, whatever it takes, per contenere la pandemia, è sempre un appello che arriva dal Fondo Monetario. Veniamo ora al nostro paese, all'Italia. Anche il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, chiede un ulteriore sforzo al governo e all'Europa per rendere flessibili anche altre normative del settore bancario, pensate e decise ben prima della pandemia. Parlando all'esecutivo dell'ABI, al quale ha partecipato anche il ministro degli affari europei Amendola, Patuelli ha chiesto la riforma del calendar provisioning, che tende ad irrigidire l'erogazione del credito e a scoraggiare i prestiti bancari a imprese e famiglie. Dati Unioncamera: sono più di 500.000 le imprese di giovani con meno di 35 anni oggi presenti in Italia, pari all'8,7% di tutto il sistema produttivo nazionale. E quanto risulta dunque dai dati Unioncamera presentati oggi, dati che mostrano comunque un calo di 80.000 unità rispetto a 5 anni fa. Andiamo velocemente verso la parte che forse interessa più a tutti, ovvero le parole oggi del ministro dell'economia Gualtieri, con una doppia intervista al cartaceo, quindi al Sole 24 Ore, oggi in pagina firma di Gianni Trovati, e poi stamattina è intervenuto a 24 Mattino con Simone Spezia su Radio 24. Direi di andare ad ascoltare le parole di Gualtieri, laddove il ministro dice il recovery potrebbe aumentare, avremo nuovi margini. Nel dialogo con la Commissione europea ci sembra di capire che, per esempio, la quota del Next Generation EU, che si chiama React-EU, che è la parte delle risorse più adatte a interventi di emergenza, di sostegno, sarà molto più alta, potrebbe essere più alta delle previsioni per il primo anno, proprio per dare agli Stati quel margine eventuale di azioni di supporto immediato maggiore qualora fosse necessario. Quindi avremo dei margini per adattare la nostra risposta all'evoluzione della situazione. E quindi il governo italiano, lo abbiamo sentito dalle parole del ministro dell'economia Gualtieri, aspetta anche l'evolversi della situazione, perché comunque il recovery non è un elemento rigido, ma reciprocamente ci si potrà adattare all'andamento dell'epidemia, all'andamento della stessa economia. Un nodo molto politico è quello dell'uso o meno del MES, se ne parla sempre quotidianamente, anche a fronte di numeri dei contagi che preoccupano un po' tutti. Gualtieri lo ribadisce, non l'ha mai nascosto, sono favorevole, ma in questo file che andiamo ad ascoltare spiega perché i benefici non sono da 37 miliardi, ma molto meno. Dico le stesse cose da maggio. Io sono favorevole al MES, anche perché l'ho negoziato io e so bene che è uno strumento che non presenta nessun tipo di condizionalità. Spiego un fatto tecnico che forse non tutti hanno del tutto chiaro e che il Presidente del Consiglio ha spiegato, che il beneficio per l'Italia dell'utilizzo del MES non sono 37 miliardi aggiuntivi, ma sono il risparmio in interessi, esattamente come il grosso della quota di prestiti, dice 300 milioni all'anno. Ovviamente per un ministro dell'economia anche 300 milioni all'anno sono una cifra significativa, quindi io sono favorevole all'utilizzo. Spieghiamo subito quello che intende Gualtieri, ovvero, perché sennò sembrerebbe esserci veramente un mondo di differenza tra 37 miliardi e 300 milioni, ovvero ipotizziamo i 37 miliardi chiesti al mercato con i tassi di interesse e chiesti attraverso il MES, il delta di vantaggio di minor debito per quanto riguarda il nostro paese sono 300 milioni. Questo perché ricordiamo il MES è comunque in una parte, lo possiamo chiamare comunque un debito per quanto a tassi molto bassi. Ecco, se ci rivolgiamo al mercato vi sono determinati tassi, se prendiamo il MES ve ne sono altri, la differenza sono questi 300 milioni. Lo stesso Di Maio lo ricorda, il MES non sono soldi in regalo, meglio secondo Di Maio i titoli di Stato. Argomento che resta aperto e che non sarò sicuramente io a dare un giudizio su questo tema, perché è molto complesso. Dicevamo dunque di Gualtieri, abbiamo sentito il ministro sul MES. Un altro punto importante della prossima manovra è l'aspetto fiscale. Il Gualtieri dice la riduzione dell'IRPEF sarà di un certo rilievo. Sentiamo. Tra compliance, noi pensiamo sarà significativa, questi 8 miliardi e poi anche interventi interni al sistema fiscale di rimodulazione, noi pensiamo di poter arrivare a una riduzione dell'IRPEF di un certo rilievo. Oh. Logicamente dirà qualcuno, qui siamo nei proponimenti da parte del governo, quindi vedremo se poi il governo riuscirà a tradurre in concreto questa intenzione di intervenire con un certo rilievo sull'IRPEF. Ribadiamo e ricordiamo quindi quanto detto prima, il PIL del terzo trimestre per il ministro che conferma le stime oltre il 13,5%. Sul terzo trimestre è intervenuto anche il premier Giuseppe Conte poco fa al Senato e ha ribadito la nostra economia resiste, ce lo conferma anche l'andamento del terzo trimestre. Ascoltiamo questo passaggio. L'intenso lavoro svolto con il coinvolgimento degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, che ancora una volta desidero ringraziare pubblicamente a nome di tutta la comunità nazionale, con la responsabile partecipazione di tutte le parti sociali, associazioni di categoria, associazioni sindacali, ecco, tutto questo ci ha consentito di definire le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. La correttezza di questa scelta, che rivendico come decisiva nella strategia di contrasto alla pandemia, è stata confermata dai dati economici di quest'anno, che al momento risultano più confortanti delle attese. La nostra economia sta dimostrando un'elevata resilienza, come dimostrano sia la caduta del PIL nel secondo trimestre, che è più contenuta rispetto a quella di molti altri partner europei, sia gli indicatori economici relativi al terzo trimestre, che si prospettano decisamente positivi. E questo dunque l'ottimismo del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella sua informativa al Senato poco fa. Vedremo quindi a fine anno come si comporterà l'ultimo trimestre, quindi in media come sarà andato questo 2020, anno orribilis causa il lockdown, causa la pandemia. Un argomento che avremmo voluto approfondire oggi, ma verrà fatto nei prossimi giorni, perché è un argomento che ci portiamo avanti da mesi, il braccio di ferro su autostrade, praticamente i vertici di Atlantia, il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha esaminato la lettera di offerta preliminare per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'88% detenuta in Autostrade per l'Italia, ricevuta da Cassa Depositi e Prestiti e dai board che affiancano CDP. I vertici di Atlantia, pur esprimendo apprezzamento per l'elaborazione dell'offerta, ha valutato i termini economici e le relative condizioni allo Stato non ancora conformi e idonei. In soldoni si tratta proprio di soldi, di risorse, la richiesta intorno agli 11 miliardi. Al momento saremmo sotto i 9 miliardi. Con Atlantia direi che possiamo chiudere le nostre notizie in breve. Ci fermiamo e poi passiamo al nostro primo approfondimento. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. minuti, di nuovo insieme Focus Economia. Il nostro primo approfondimento è dedicato ai consumi, per fare un bilancio sugli ultimi mesi, in particolar modo grazie alla fotografia di Confimprese di Ernst & Young. Diamo un focus su settembre di quest'anno, lo raffrontiamo al mese di agosto ma anche allo scorso anno. Lo facciamo grazie al contributo di Mario Resca, presidente di Confimprese. Imprese. Buonasera Resca. Buonasera a tutti voi, ai vostri ascoltatori. Grazie. Eccomi. Grazie. Resca, subito una domanda. È preoccupato da questi nuovi lockdown a partire dalla Lombardia, la chiusura dei centri commerciali non alimentari del fine settimana? Siamo decisamente preoccupati, certamente sì. In un momento in cui si sperava che il Natale portasse beneficio a un anno difficilissimo per tutti gli operatori e tutti gli imprenditori, ovviamente questa recrudescenza della pandemia mette tutti in difficoltà. La chiusura dei centri commerciali è un'operazione, credo, difficile anche da accettare per i commercianti, perché sono gli stessi commercianti che sono in centri commerciali, sono anche nelle città grandi, piccole e medie. Il problema è che vede, il problema di questa situazione, le regole ci sono sempre state, cioè le mascherine, la temperatura, la distanza individuale, non più sociale come viene chiamata. Quello che riteniamo dopo il 15 maggio, dopo il 3 maggio, quello che è avvenuto, che tutti liberi e grande euforia, fake news o non fake news, ritenevamo tutti vogliono tornare alla normalità, evidentemente dopo un periodo difficile per le aziende e ovviamente per i consumatori. Questo è un ulteriore colpo nello stomaco che viene dato agli imprenditori nel settore del commercio, che impiegano 3 milioni e mezzo di dipendenti, rappresentano 500 miliardi di fatturato, quindi sono 1.290.000 le aziende del commercio, sono imprenditori che rischiano, che si impegnano in un anno di consumi, quello che è avvenuto, le difficoltà di accesso al credito evidentemente, il peso degli affitti, quindi questo andamento degli ultimi mesi era incoraggiante e quindi evidentemente il chiudere i centri commerciali, si ritiene che questo consenta più assembramento, se fossero state rispettate le regole o fatte rispettare, perché il problema che noi abbiamo, è capitato a me per esempio a Milano di vedere la movida e chiamare delle lei dice se si fossero fatte osservare le regole quest'estate, certo, non ci trovavamo in questa situazione. Certo. Ricordiamo, Resca, che il fine settimana per un centro commerciale, ma in generale per esempio per l'economia della Lombardia, il weekend vale il 20-30% del fatturato settimanale. Anche 35-40%, ecco, il weekend è quello che garantisce il profitto o la perdita, cioè vuol dire fino al 35-38% un weekend consente, quindi perdere un weekend vuol dire perdere la settimana, vuol dire già in perdita immediata per gli operatori. Ecco, questo numeri questi, problema. Resca, quindi addirittura 30-35% se non il 40% il fatturato del fine settimana. Corretto. Su un mondo, quello del commercio, i cui consumi, lo segnalate voi oggi nel vostro studio, che non vanno bene, settembre 2020 meno 13,5% sul 2019, quando invece si era avuto un sentore forse diverso tra luglio ed agosto. Cosa è successo? Decisamente sì, devo dire luglio è stato già discreto, agosto ha avuto, lei sa che gli saldi sono partiti in agosto, quindi nati dai saldi, agosto è stato un buon mese, settembre era interessante, ottobre qualche sentore sui consumi c'era, evidentemente ottobre ha creato un ancora che è difficile da soffrire dopo aver chiuso per mesi e aver avuto problemi di tutti i tipi. Ovviamente parliamo del food, perché il food e l'alimentare, certo, sono andati ovviamente fortunatamente bene, i beni essenziali hanno consentito a chi opera nel food e in tutta la filiera del food di soffrire molto meno, comunque di essere addirittura in positivo. Quindi questo è un fatto positivo per noi. Quindi sono i bisogni essenziali. No, noi riteniamo, ahimè, ma noi abbiamo fatto un comunicato stampa ieri come Confimprese, Confcommercio, CNCC, l'Associazione dei Centri Commerciali e Federdistribuzione, in cui siamo estremamente preoccupati per il sistema paese e per il sistema ovviamente degli imprenditori che operano in questo settore dell'andamento di questa decisione, perché poi le regole vengono applicate. La cosa vera è che si è avuto la sensazione dopo la fine del lockdown che c'erano le regole, c'era il distanziamento sociale, ma nessuno le rispettava e nessuno è stato, i media hanno sempre fatto vedere assembramenti puliti con regole che esistevano ma violate clamorosamente. Non abbiamo mai sentito locali chiusi, o perlomeno non c'è avuto notizia, non è stato mai avvertito che siano stati multati nei periodi della cosiddetti assembramenti. Quindi le regole sono state, e quindi questo ha creato da parte di noi tutti, della popolazione, l'idea che si potesse, che tutto fosse, certo, finito. Ecco. Anche perché le informazioni che venivano da queste parti dicevano che non era più vulnerabile, che era finito, che c'era l'effetto gregge, quindi voglio dire, tutti in buona fede, tutti sono andati in vacanza in Italia e tutti ci stiamo dicendo che era già passato. Purtroppo è un campanello durissimo quello da recepire per le aziende. Indubbiamente, Resca, noi abbiamo poi davanti a noi dei dati molto contrastanti, perché quello dei consumi ce li ha illustrati, e poi abbiamo due opposti, abbiamo l'e-commerce che ormai lo sappiamo ha avuto un vento favorevole con il lockdown e con tutto il periodo che chiude a settembre con un più 22,7%, e dall'altra parte anche tutto il mondo del turismo che addirittura arriva a meno 60% nell'anno. Brevemente le chiedo veramente la sintesi, e quali sono le sue richieste o forse i suoi consigli al governo in questo momento? Il consiglio è quello di non panicare, ci sono delle regole, applichiamole. I centri commerciali sono imprenditori e i centri commerciali stessi sono estremamente sofisticati, chiediamo che le regole vengano applicate a tutti, e questo è un problema. Però il commercio soffre già in modo decisivo, indipendentemente dal quindi non arriveranno molte aziende a Natale, si rischia di chiudere, avremo dipendenti, avremo manodopera evidentemente, avremo persone disoccupate nel settore. Il primo ministro ha detto domenica sera alla conferenza stampa che le aziende hanno bisogno anche loro di ristoro, c'è bisogno di aiuti anche a fondo perduto, altrimenti molte delle imprese del solo commercio non ce la faranno superare il Natale, o comunque l'anno prossimo saranno costretti molti di questo a sparire. E questo vuol dire sacrificare ancora una volta i consumi, vuol dire dare incertezza ai consumatori. I consumi, l'andamento dei consumi è un obiettivo fondamentale per mantenere anche le uguaglianze sociali. Vuol dire ci saranno molti più poveri e tutti vorrebbero consumare. In questo momento la situazione è veramente difficile. Quindi chiediamo al governo di supportare o ristorare anche le aziende, hanno bisogno di liquidità, se non si vende non c'è liquidità, gli affitti sono un problema non certo risolto, perché quindi, non c'è nessuno provvedimento governativo che maggiori ci aiuti per contrastare questo periodo. Resca, la interrompo per farle sentire, perché si rivolge in generale anche al settore, a tutto il settore di chi sta in effetti nel commercio, il Presidente del Consiglio Conte, sentiamo. Siamo consapevoli che ad alcune categorie, mi riferisco soprattutto, ma non solo, al settore dei bar e dei ristoranti, chiediamo ulteriori sacrifici. A riguardo assicuro l'impegno del Governo ad adottare misure di sostegno mirate a vantaggio di queste categorie produttive più duramente colpite. A tal fine, con la prossima legge di bilancio per il 2021, il Governo intende porre in essere una strategia che, pur agendo con la prospettiva di medio e anche lungo periodo, non trascuri misure immediate. Ecco, Resca, probabilmente ha avuto una risposta indiretta da parte del Premier Conte, misure immediate per il settore, vedremo quali sono. Io intanto le faccio commentare brevemente Conte, poi ci avviamo verso la nostra pausa. Guardi, questo ci tranquillizza in parte, che il Primo Ministro prevede a provvedere, dare ristoro e aiuto, però qui siamo in emergenza, quindi la rapidità dell'intervento è fondamentale, altrimenti questi operatori non sono in grado di pagare certo i fornitori, non sono in grado di affitti e le banche, per chi ha leasing, per chi ha finanziamenti. Quindi siamo in emergenza, quello che è successo, anche i 229 miliardi, occorre l'urgenza. Allora se arriva, rischia di arrivare, se non arriva subito, rapidamente, rischia di arrivare troppo tardi. Quindi faccio una sintesi del suo pensiero, se mi permette, interventi magari anche non a pioggia ma rapidi ed immediati, piuttosto che a promesse molto ampie che però non si sa quando arriveranno. Io la ringrazio, le do appuntamento a prossime puntate di Focus Economia, noi ci fermiamo. Focus Economia. Di nuovo insieme Focus Economia, ci avviamo verso il GR delle 18. tutto. Prima una puntualizzazione in base anche ai vostri messaggi al 349-238-6666. In effetti ho ricordato più volte i contagi di oggi, 15.199, non li abbiamo rapportati ai tamponi e quindi me ne scuso, i tamponi sono 177.000, quindi quasi record per quanto riguarda i tamponi. Torniamo al nostro approfondimento, è un approfondimento dedicato alla filiera dell'autotrasporto, lo leghiamo a quanto stavamo dicendo poc'anzi della crisi dei consumi, perché se troviamo i nostri prodotti sugli scaffali lo dobbiamo a chi questi prodotti ne effettua la logistica, li trasporta. Mi avvalgo per fare questo approfondimento del collega Andrea Ferro, che saluto, e saluto anche Andrea Manfron, segretario generale di FaiConf Trasporto. Buon pomeriggio ad entrambi. Buon pomeriggio. Buonasera Vincenzo, buonasera Manfron. Ecco, Andrea, non per sottrarmi alla presentazione, ma sfrutto la tua presenza proprio per fare un'introduzione sulla crisi di questo settore, un quadro drastico, mi dicevi prima della trasmissione. A te il microfono. Sì, come dicevi peraltro tu nella presentazione, un po' durante il lockdown abbiamo scoperto, diciamo anche quelli un po' più distratti, che le merci non viaggiano con il teletrasporto, ma vengono trasportate da uomini, da organizzazioni, e abbiamo capito quanto è importante la logistica e l'autotrasporto per la vita del paese in un momento tanto più difficile quale quello che abbiamo vissuto. Ahimè, sono ancora mesi molto molto incerti, e quindi c'è stata anche una certa sensibilità nei confronti di questo mondo, un mondo che però continua a soffrire, e anzi in questo periodo si sono acuiti i mali che affliggono il settore da tempo: la concorrenza selvaggia praticata soprattutto dai vettori dell'est Europa. Va detto che ora ci saranno norme europee che in qualche modo contrasteranno queste forme di concorrenza selvaggia, ma non entreranno immediatamente in vigore, quindi questo fenomeno resta. Poi c'è la questione molto pressante, una questione centrale per la categoria, che è quella dei tempi di pagamento. Praticamente con la crisi indotta dalla pandemia molti committenti hanno ritardato ulteriormente il pagamento dei servizi, addirittura qualcuno ha comunicato pagamento a 8, 10, addirittura 12 mesi, e chiaramente per le aziende di autotrasporto questa è stata una fonte, certo, di grave sofferenza, perché i costi fissi ci sono, le merci viaggiano su camion che vengono guidati da uomini che devono essere chiaramente pagati, ci sono i costi di esercizio relativi al gasolio, ci sono i costi delle autostrade, insomma ci sono imprese, soprattutto le medie, soprattutto quelle piccole, sono in grave sofferenza, sono sull'orlo del baratro. Poi c'è anche questa forza dei committenti rispetto alle aziende che praticamente dettano legge e fanno il prezzo, quindi comprimendo i margini, i ricavi per le aziende di autotrasporto. Poi c'è anche la questione del rinnovo delle flotte, sulle nostre strade circolano tir ormai vecchi, addirittura in Italia abbiamo l'infausto primato di avere l'età media dei tir più alta, sfiora i 14 anni, significa in circolazione mezzi più inquinanti, mezzi meno sicuri. Chiaramente per rinnovare le flotte in un momento di crisi occorrono incentivi, risorse che vengono invocate dalle associazioni dell'autotrasporto da parte del governo. Qualcosa è stato fatto, però certamente per cambiare le cose occorrono investimenti più massicci, e insomma questo è il quadro generale. Ma poi abbiamo un ospite che chiaramente potrà dirci più direttamente qual è lo stato dell'arte per quanto riguarda questo settore. Vincenzo. Ecco, Andrea Manfron, segretario generale di FaiConf Trasporto. Il quadro fatto dal collega Andrea Ferro non mi sembra abbia dei punti oscuri. Manfron, quali sono le vostre urgenze al momento? Allora, prima di tutto direi che, visto che abbiamo degli appuntamenti anche con la finanziaria, noi abbiamo delle esigenze che sono quelle, come dire, di tipo ordinario. Quindi abbiamo delle esigenze di garantire la competitività delle imprese sempre e comunque, con misure che sono in qualche maniera legate alla necessità di avere delle risorse finanziarie dedicate, sottolineo, al settore, Ragionare anche dal punto di vista, come dire, della straordinarietà del momento. Quindi lì dove necessario e quando necessario garantire anche delle misure di ristoro per le imprese di autotrasporto. Perché ricordiamolo, siamo essenziali, forse qualcuno se n'è accorto, lo ricordava Andrea Ferro, ma vorrei sfatare un mito: durante il lockdown e comunque durante questi mesi le imprese di autotrasporto, è vero che in alcuni casi hanno lavorato soprattutto su alcune filiere, vedi l'alimentare, sì, ma hanno nella maggior parte dei casi subito un danno enorme anche loro. Quindi da questo punto di vista è necessario dargli una mano. Ulteriore elemento direi importante nel contingente è proprio quello di garantire tutti i provvedimenti che fa il governo piuttosto che fanno le regioni, quindi chiusure varie. Ecco, infatti. Se ci sono delle escalation, mi raccomando, visto che l'importanza è quella di garantire l'approvvigionamento delle merci sia nei supermercati, nelle farmacie e tutto il resto, tutti i provvedimenti devono essere fatti con chiarezza e devono garantire che i flussi di traffico merci vengano garantiti. Ecco, per esempio, Manfroni, mi scusi se la interrompo, cosa succederà da domani sera alle 23 per voi in Lombardia? La notte quanta percentuale di merci viene movimentata? Ma durante la notte non tantissima, se non nei casi estremi, però dal punto di vista organizzativo, soprattutto anche alle 5 del mattino, le posso dire che in realtà su linee di lunga percorrenza già iniziano dei traffici. Quindi da quel punto di vista, per questioni prettamente lavorative, ritengo di interpretare in maniera corretta l'ordinanza della regionale, debbono, sottolineo, essere garantita la possibilità dei servizi di trasporto merci. Ecco, andiamo velocemente verso la nostra pausa e poi il giornale radio. Mi suggeriva anche Andrea Ferro, che è con noi prima della nostra trasmissione, le preoccupazioni del vostro mondo anche in questo momento dove si chiedono aiuti allo Stato, ma c'è anche il rischio di nuove accise. Quindi Manfron, che punto si può fare su questa preoccupazione? Allora, lì c'è un provvedimento che potrebbe o dovrebbe essere portato e spinto, promosso dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministro Costa, relativamente all'equiparazione delle accise sul gasolio a quelle della benzina, che sapete sono più alte. Sì. Attenzione, non riguarderebbe solo l'autotrasporto, riguarderebbe anche i veicoli della massaia, quindi i veicoli leggeri, e questo è un costo enorme che la collettività, la dico in senso lato, non può sostenere, a maggior ragione in questo momento. Per di più, per chi evidentemente del gasolio, uno dei fattori di produzione operativi maggiori per chi fa il nostro mestiere, a maggior ragione non possiamo sostenere o accettare minimamente l'incremento di costi sulle accise. Quindi da questo punto di vista siamo pronti a fare anche delle battaglie. Benissimo, benissimo. Quindi no a nuovi costi, aspettiamo dunque per il settore quanto andrà a fare il governo. Io ringrazio Andrea Manfron, segretario generale di FAICONF Trasporto, ringrazio il nostro Andrea Ferro, ci fermiamo, GR24 e poi ci ritroviamo con i mercati. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. All'inizio è un semplice raggio di sole che squarcia le nuvole. Poi diventa una nuova luce, un nuovo modo di vedere le cose e vivere le nostre emozioni. Jaguar E-Pace Thunder. Il tuono dopo la tempesta. Vernice premium silicon silver, tetto a contrasto nero e black exterior pack, ora da €300 al mese. TAN 0, TAEG 060, salvo approvazione della banca, documentazione precontrattuale e assicurativa presso le concessionarie Jaguar. Fino al 31 ottobre, info su jaguar.it. Imprenditore, la tua azienda non può aspettare. Riparti ora. Le risorse le ottieni da Credimi con i finanziamenti coperti dal fondo di garanzia, rimborsabili in 5 anni a partire dal 2021 e disponibili per società di persone e di capitali. Verifica online se la tua azienda è finanziabile. Basta la partita IVA. Ricevi la proposta in 3 giorni. Vai su credimi.com o chiama all'800-195-195. Messaggio promozionale. Fogli informativi su credimi.com. Non vedo l'ora di essere tra le onde con il surf. Ma perché non andiamo in montagna invece? Ma dai, mare tutta la vita. Ma pensa all'aria fresca, alle passeggiate. E tu pensa al sole. all'acqua, alle cene di pesce. Non mi piace il pesce. Mi fa schifo passeggiare. Compagnia sbagliata? Per la polizza auto e moto, Segugio.it trova la compagnia giusta per te e ti fa risparmiare. Segugio.it, trova la compagnia giusta. Ultima ora, il Gatto Tigro in concerto all'Arena di Verona. Basta fake news. Monge non ha bisogno di cantar storie. In Monge Natural Super Premium, le fonti proteiche animali sono sempre il primo ingrediente. Le crocchette studiate per le diverse esigenze nutrizionali sono 100% made in Italy. La carne o il pesce fresco favoriscono l'appetibilità, senza conservanti e coloranti artificiali e no cruelty test. Monge, il pet food che parla chiaro e aspetta il festival per nuovi tormentoni. Azimut Peerbox eleva al cubo i vantaggi fiscali della normativa Peer Alternative. Scopri come su azimut.it. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario Azimut. Gli attacchi informatici possono nuocere gravemente alle imprese. Scopri il tuo livello di sicurezza. Richiedi una valutazione immediata sul sito sanmarcoinformatica.com. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. .19 Focus Economia in studio Vincenzo Miglietta, è il momento dei mercati, l'approfondimento lo facciamo oggi con la collega di Radio Cori Il Sole 24 Ore, Stefania Arcudi, che saluto. Buon pomeriggio Stefania. Buon pomeriggio a voi. Stefania, allora vedo così velocemente tutti i segni negativi sia in Europa che negli Stati Uniti. Wall Street è un'ulteriore riprova della preoccupazione degli operatori finanziari per questa nuova epidemia, o c'è altro? No, sostanzialmente questo, anzi nel corso della giornata i listini, che comunque sono sempre stati in calo, avevano cercato di accantonare un po' le preoccupazioni. Wall Street aveva inizialmente aperto in positivo anche sulle speranze di un nuovo piano di aiuti all'economia, poi appunto sono tornate a prevalere le preoccupazioni, l'aumento di contagi, i nuovi lockdown, le misure restrittive che sono state varate in vari paesi, compresa l'Italia, hanno un po' scoraggiato gli investitori, così appunto i listini hanno chiuso sui minimi di seduta. Milano ha perso il 2% circa, poco più di Londra, Parigi, Francoforte un punto e mezzo, e ovviamente sono stati penalizzati un po' tutti i settori, e poi in particolare quelli più esposti al discorso lockdown, per cui i viaggi, per cui le costruzioni, la vendita al dettaglio e anche poi l'energia, penalizzata in realtà dal calo del petrolio che ha perso oggi il 3% abbondante. Quindi ecco Stefania, non ci sono settori che si salvano, lo dicevi, un po' tutti i comparti sono penalizzati sui mercati, anche le banche vanno male. Le banche sono andate male oggi, lo spread si è allargato, durante la seduta era tornato verso i 140 punti, poi ha chiuso a 134, le banche appunto sono andate in generale male, malissimo Bipper che ha perso il 6,3%, in realtà ieri Bipper aveva guadagnato circa 10 punti, erano stati movimenti tecnici legati all'aumento di capitale da oltre 800 milioni per l'acquisto delle filiali UBI, che si va a chiudere venerdì, dopo domani, il 23 ottobre, quindi oggi ci sono state ulteriori vendite maggiori rispetto alle altre banche, comunque tutte in calo. Unicredit ha perso il 3,7%, Intesa al 2,8%, lo stesso Mediolanum, quindi insomma una giornata molto negativa per il comparto. E infatti guardando velocemente poi i titoli di tutto il FTSE MIB, vedo, se non sbaglio, consegno più pochi titoli tra questi di Asorin ed Unipol. Sì, pochissimi in appunto, come dicevi, i titoli in positivo, tre per la precisione sul FTSE MIB, di Asorin che ha guadagnato il 2%, Unipol l'1,2 e più 1 per Buzzi. Per Diasorin chiaramente il tema è quello dei vaccini, insomma, certo. Sì, molto, molto attuale. Anche il presidente del Consiglio Conte oggi ha detto che un vaccino potrà arrivare già entro fine anno, insomma, poi qualche smentita, però comunque il tema resta di fortissima attenzione in un momento in cui, appunto, come dicevamo, la preoccupazione maggiore è proprio quella sui nuovi contagi e sull'evoluzione della pandemia. Per quanto riguarda invece Unipol, il traino è stata la controllata assicurativa Unipol Sai, che ieri ha collocato con successo un bond da 500 milioni di euro e inoltre, secondo alcuni osservatori, il gruppo assicurativo potrebbe beneficiare in qualche misura dal lockdown, nel senso che se le persone stanno più in casa i sinistri sono in minor misura e quindi questo potrebbe essere un beneficio per la società. Bene, grazie Stefania Arcudi, collega di Radio Cori Il Sole 24 ore. Noi passiamo a parlare del boom dei bond europei sui mercati. Beh, possiamo dire che siamo di fronte probabilmente ad un fatto storico, ovvero la collocazione e soprattutto il successo sul mercato di un bond targato Commissione europea. In particolar modo parliamo di due bond finalizzati a finanziare la cassa integrazione. Ne parliamo con il collega del Sole 24 Ore, Moria Longo. Buon pomeriggio, Moria. Buon pomeriggio a tutti. Ecco Moria, io ho letto attentamente quanto hai scritto sul Sole 24 Ore, quindi possiamo dire che in effetti siamo di fronte ad un fatto storico, sia per il collocamento di un bond da parte dell'Europa, ma soprattutto anche per il successo che questo ha avuto sul mercato. Sì, in entrambi i casi sono due eventi di portata storica. Premetto che l'Unione Europea in passato già emetteva piccole obbligazioni, non è la prima volta in assoluto che emette obbligazioni. Questa qua è diversa perché è la prima obbligazione che va a finanziare uno dei programmi varati durante la pandemia, che purtroppo è ancora in corso, il programma SURE, il programma che serve per finanziare la cassa integrazione negli Stati membri. Gli Stati membri hanno già chiesto dei fondi, 16 Stati hanno chiesto i fondi, anzi 17 perché l'Ungheria, diciamo, è ancora lì pendente, vedere se gliele danno oppure no, hanno chiesto fondi per 78 miliardi all'Unione Europea, e adesso, proprio per finanziare la cassa di integrazione, l'Unione Europea adesso inizia a emettere obbligazioni sul mercato per raccogliere i fondi. Qual è la grande novità? La grande novità è che l'Unione Europea inizia oggi e poi andrà avanti nei prossimi anni a raccogliere una grande quantità di fondi. Per il programma SURE dovrà raccogliere almeno 87 miliardi, sono quelli già chiesti, ma in realtà può arrivare a 100 miliardi. E poi inizierà la raccolta fondi per il famoso Recovery Fund, il fondo Next Generation, e lì si può arrivare ad altri 750 miliardi. Quindi l'Unione Europea diventerà in pochi anni il principale emittente sovranazionale al mondo, diventando un emittente di stazza enorme, e tra l'altro la svolta, diciamo, storica, che lo fa appunto per finanziare programmi europei e con una forte anche redistribuzione delle risorse dai paesi più ricchi ai paesi più poveri o comunque più in difficoltà, che si finanziano a tassi più alti. E questa, diciamo, possiamo dire che è la prima forma, anche se con grosse virgolette, di eurobond, di obbligazioni comuni europee. Quindi è un potenziale passo in avanti dell'Unione Europea, vediamo a cosa porterà questo, ovviamente può finire qui e nulla succedere in futuro, però è un potenziale passo verso una maggiore integrazione dei paesi europei, appunto con l'emissione di debito comune, che è una cosa che per esempio l'Italia e vari paesi chiedono da tanto tempo. Certo. L'altro elemento importante è la domanda, effettivamente. L'Unione Europea vorrebbe mettere due titoli al massimo da 15 miliardi, le banche che stavano curando il collocamento sono state travolte da una domanda arrivata praticamente da tutto il mondo per 233 miliardi, che è il record storico, mai nessuno aveva raccolto così tanti ordini d'acquisto. Tant'è vero che poi i due bond sono stati aumentati da 15 a 17 miliardi. E quindi questo dimostra la grande risposta del mercato, quindi mette anche una certa fiducia nei collocamenti successivi, perché, ripeto, l'Unione Europea da ora in avanti inizierà a emettere molte, molte obbligazioni. E infatti, che ci saranno futuri ed altri collocamenti, una risposta risposta indiretta arriva anche dai vertici dell'Unione Europea, perché la von der Leyen dice questa emissione da 17 miliardi è solo la prima. Ottimista anche Gentiloni sul successo di Schur, dice conferma le aspettative sul recovery. Ecco Moria, la domanda che ti voglio fare è questa: perché questo interesse, perché questo successo, nonostante il rendimento del bond decennale sicuramente potrebbe trovare sul mercato forse altri competitor, perché ci si fida così tanto di questi bond a firma Commissione Europea? Sì, questa è una domanda che giustamente si pongono un po' tutti. Cioè, il bond decennale rende a un tasso di interesse negativo, quindi rende meno di nulla. Meno 0,238. Esattamente, eppure tutti sono andati a comprarlo. Perché? I motivi sono tanti. Il primo è il fatto che, come dicevo, sta per entrare sul mercato una corazzata. L'Unione Europea diventerà nei prossimi anni un grandissimo emittente obbligazionario, quindi entrerà negli indici e quindi un po' tutti i fondi devono avere questo titolo. Ma la realtà sta proprio nel rendimento, perché nel mondo relativo dei tassi negativi questo rendimento diventa appetibile. Se si confronta con un Bund tedesco, il Bund tedesco ha un rendimento molto più basso, un titolo francese ha un rendimento molto più basso. Per trovare rendimenti un pochino più alti rispetto a quello emesso dall'Unione Europea bisogna andare a comprare obbligazioni del Portogallo, della Spagna o ancora di più dell'Italia, che rende molto di più. Questo cosa significa? Significa che anche un rendimento negativo diventa, in termini relativi, diventa appunto interessante per molti investitori, perché ricordo che l'Unione Europea ha rating di AAA. Mentre invece Portogallo e la Spagna ovviamente hanno rendimenti molto più bassi, quindi questo titolo paragonato al rating dà un rendimento decisamente più elevato rispetto a quello di altri stati, come per esempio la Francia, che rende meno di quello dell'Unione Europea. Chiaro, e certo. Poi ci sono anche motivi regolamentari, le banche, l'assicurazione, per vari motivi di regole hanno necessità di comprare titoli sicuri, quindi con rendimenti elevati. E siccome, ripeto, l'Unione Europea diventerà un grande emittente, questi titoli li devono comprare in un certo senso. Grazie al collega Moria Longo, collega del Sole 24 Ore. Mi sembra abbiamo approfondito il boom dei bond europei sui mercati. Passiamo al nostro ultimo approfondimento dedicato alle aziende in crisi. E giustamente prima del nostro ultimo approfondimento ci fermiamo con il traffico. Focus Economia. E nella nostra ultima parte di Focus Economia facciamo il punto sui tempi di pagamento delle imprese, dei pagamenti tra le imprese, perché continuano le ripercussioni economiche negative dell'emergenza Covid proprio su questo aspetto. Il numero delle aziende italiane che pagano i propri fornitori con oltre 30 giorni di ritardo ha raggiunto il 12,7%, un dato di poco superiore a quello di fine 2016, ma di soli 2 punti superiore a inizio anno. Poteva dunque, secondo molti osservatori, andare molto peggio. Questa fotografia ci arriva dallo studio pagamenti aggiornato al 30 settembre del 2020 realizzato da Cribis, società del gruppo CRIF, un'azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie. È con noi l'amministratore delegato di Cribis, Marco Preti, che saluto. Buonasera. Grazie, buonasera. Ecco Preti, come si spiega quindi questo fatto che comunque le imprese tra di loro hanno continuato ad avere di fatto fiducia, perché è solamente di questo si tratta, nonostante vi siano stati dei problemi nella filiera del sistema creditizio, le imprese hanno comunque continuato con percentuali quasi vicine a quelle degli scorsi anni ad onorare i propri impegni? Beh, diciamo che nella prima fase dell'emergenza sanitaria le cose andavano decisamente meglio, perché come si vede anche dai numeri gli incrementi erano bassi. Nel dato a settembre mostra invece una crescita del 20% rispetto ai dati che c'erano in precedenza. Quindi è vero che ci poteva essere una situazione molto peggiore, ma è senz'altro altrettanto evidente che la pandemia ha colpito le imprese in una zona molto sensibile, che è quella della liquidità. Quindi il problema liquidità resta anche tra le imprese stesse, l'accesso al sistema del credito ha avuto dei cambiamenti dopo i primi mesi di difficoltà? Direi che tutti gli interventi del governo e ancora la possibilità di accedere al credito da parte delle banche ha fatto sì che la situazione non sia troppo grave. Devo dire che anche le imprese, dalle rilevazioni che noi abbiamo fatto, hanno attuato dei ragionamenti e delle modalità di sistema, cioè hanno cercato di aiutare i propri fornitori, di stare molto più vicini ai propri clienti per evitare che si allungassero i tempi di pagamento, in una sorta di solidarietà complessiva nei confronti di un'emergenza che nessuno si aspettava. Per il futuro sarà da capire se questa cosa peggiorerà, soprattutto se la situazione economica non riparte. Quali sono i settori, le aree del nostro paese che possiamo definire così, tra virgolette, più affidabili? Nei pagamenti, le aree del paese più affidabili sono sicuramente nord-ovest e nord-est. Abbiamo però questa evidenza di seppur in una provincia ancora molto affidabile dal punto di vista dei pagamenti, che è quella di Lodi, però c'è stato un peggioramento del 55% rispetto allo scorso anno ed è stata la provincia maggiormente colpita e colpita per prima. Il sud dell'Italia è un po' spaccata a metà, quindi se il nord-est e il nord-ovest sono più virtuosi, sicuramente il centro e il sud fanno un pochettino più fatica e hanno ritardi di pagamenti più lunghi. Per quanto riguarda invece i settori merceologici, sì, è chiaro che stanno soffrendo moltissimo tutto quello che riguarda la ristorazione, l'ospitalità, i servizi cinematografici, che poi sono quelli tutti i lavoratori dello spettacolo, ma anche il commercio al dettaglio, che sta subendo pesantemente. Ecco, i numeri che abbiamo fatto in questo nostro approfondimento logicamente si riferiscono ai pagamenti tra imprese, quindi tra imprese private. Riesce, certo, Preti a darci una fotografia molto veloce sull'annoso rapporto invece che c'è tra imprese private e amministrazione pubblica? Beh, direi che rimane stabile in una certa difficoltà di ottenere i pagamenti in tempo da parte della pubblica amministrazione. Direi che qui grossi cambiamenti non ce ne sono, ma questa non è una buona notizia. I giorni di ritardo in questo caso si mantengono su che numero? Dipende molto dalla tipologia di pubblica amministrazione, perché le locali, soprattutto al nord, riescono a mantenere tempi di pagamento in linea con quelli delle imprese, quindi buoni. Certo. Quando si passa a amministrazioni centrali, ecco che i tempi di pagamento possono allungarsi anche di diversi mesi. Ecco, come ultima domanda, il rapporto con il sistema del credito, secondo lei il governo deve fare ulteriori interventi o la macchina che si è messa in moto con l'ABI è una macchina che sta dando i suoi frutti? Io penso che col sistema del credito le cose stiano andando bene. C'è stata una forte spinta alla digitalizzazione di tutti i meccanismi, che credo sia un grande aiuto in questa fase. Credo che però se le cose rimarranno così o si inaspreranno dal punto di vista sanitario, saranno necessari ulteriori interventi centrali e da parte del governo. Benissimo, grazie a Marco Preti, amministratore delegato di Cribis. Noi siamo in chiusura, ringrazio allora Valeria Bernardi in regia, Maria Sole Lisciandro e Danilo Di Trani in assistenza al programma. Un saluto da Vincenzo Miglietta. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.